da qualche cosa, non lo so. Adesso vediamo, capito, se ce la faccio, non ti prometto niente. Praticamente noi ci dobbiamo trovare lì al campo, poi vengono loro, ci prendono perché è un posto nuovo, è difficile da trovare, vabbè. E quindi dobbiamo andare direttamente lì. Donkey. Ah, avanti, si può entrare, ma stai a bussarti. Con la fisca, quello parlo io. Positivo. No, sono uno scià, tutti i figli. Non di niente, sono scià. Oh, andate bene, andate bene. Cambiato. E allora, anche la prossima io questo microfono da Palma, ma si vede che era parecchio, che diciamo che c'ha dentro lui che ha fatto così, ma si interferò il darne di questo apparecchio, adesso vediamo cosa fare. Vi lascio il tutto a Falchetto, Falchetto, esci fuori dal parcheggio, va. A Parogero, già siamo fuori dal parcheggio. Siamo fuori, alla grande. Bene, bene, rilancio il microfono a Pierpaolo, avanti Pierpaolo. C'è ancora, avanti già. A me non mi ammazza nessuno, scappa. Dai, sto uscendo fuori sassa, via. Ma dove sei in questo momento già? C'è il segnale alternate, cioè un movimento, sì. Beh, direi. Perché male ti sta arrivando? E sei 9.25, pa, non lo so. Dove sei? Che sarà sì? Sono la Brittella. Ah, stai dicendo, sono a muro, sono facciamo che sei andato a muro. Adesso quando ti arrivo, dimmi. Più o meno uguale, da 9.20 a 9.25. Allora non funziona questa cosa, se arrivo uguale non funziona niente. Aspetta che c'è un altro, chi è questo? Chi è che ha mandato portato? Non ti preoccupare, ok, tutta la sera. Ma questo è un segnalone forte. Tutta la sera, tutta la sera, non ti preoccupare, vai avanti, tranquillo. Perché poco fa ero sul 30, stavo provando, lavorando nel microfono e questo qua stavo fischiando, mi ha dato le cose e poi questo lo stesso anche lui si metteva a fischiare. Era un segnale 9.25, molto forte. Sì, capo, anche quando parlo io si mette a fischiare. Non so chi sia, un segnale, all'attimo che qualcuno sta facendo qualche giochetto, ma è un segnale normale questo dei soliti, dai. Avanti Capri. Non ce ne sono problemi, se anche così uno si può invertire, se ti piace divertire così, mettendo la portante, va benissimo, non proprio, ti vuole... Ma è possibile che tu mi disegni le connessioni del microfono dell'SBE, è possibile? Possibile no, devo andare alla GBC, ecco, devo andare alla GBC che lui ce li ha gli schemi, perché... Come si chiama? Quello che c'ho io è stato modificato, per cui mi sembra te l'avevo già detto, devo fare ritornarlo all'origine, dai. Perché è utile che ti facciano quelle connessioni lì, però non vanno bene. Io c'ho lo schema del fuoco dell'SBE che si sento. Il mio non me lo ricordo che cos'è, aspetta che te lo dico, non me lo ricordo che modello c'ho io. Dani, dove sei? Dani, doppio ru, dove sei arrivato? Sono un 1-3-1, vai. Sono un 1-3-1. Bene, ti sto arrivando con le coordinate, cambio. Arrivi bene, arrivi bene. Arrivate tutti ok. Il piccolo sono io. Sì, comunque, quello che c'è non vedo nessuna cosa, nessuna... È quello tutto nero, dove c'è il coso, la capsula cromata, c'è cioè il bordo cromato, e poi c'è il tasto in alluminio sotto, dove c'è Cisco, touch to talk e lock. E poi sotto c'è un interruttore dove c'è scritto Vox e Norma, così è il tuo. All'apparato, quelle già le trovo. Mi interessa recuperare la diceva Massimiliano, beh, stavo dicendo, dobbiamo trovare un modo di sentirci, magari se hai il numero di telefono a qualcuno tra Gianni e Natalino o qualcuno di quelli, poi magari ci mettiamo d'accordo e poi ci sentiamo. Ma non in frequenza, non date il numero di nessuno di telefono, capito? Ci possiamo dare un appuntamento così, diciamo, robe, hai capito? Anche una sera vieni qui, li vediamo assieme, qui c'è tutto, in un attimo vi vediamo assieme, poi se ti serve qualche roba a te, di schemi, io ho tutti gli schemi anche negli apparati, però di quello no, io so solo che non lo la linea 3, quella roba lì, e lì va quando anche con il nome di Telcom quel microfono, perché via internet almeno, però schema non ce n'era. Ok, a parte il break, no, il break l'avete fatto entrare, buonasera Massimiliano, mi sembra, il Caprilù ti mette il cambio. Positivo Gianni, io al Caprilù, buonasera, ben ascoltato. Riprendete voi, chi c'è, Falchetto, mi sembra sentito, riprendete Falchetto. Yeah. comando, attenzione, avanti Gianni. Gianni, dai, vi ascolto, Robert, ti ascolto, dai, non so come mi ascoltate voi. Dopo 68 con la radio da 4 al 5, dai già, come ascolti a me? Sì, a voglia, sì, sì, ti ascolto. Il segnale te lo do io, segnale 0 e radio 2. A me mi ascolti Gianni? Caparocero, bene meta, riprendete. Vediamo se ascolta a me, avanti Gianni, mi ascolti. Ascolta anche a te Pierpaolo, vai. Non posso fare il segnale perché sto guidando, vai. E a me mi ascolti Gianni? Gianni. Sì, Natalino, ti ascolti. Tutta la volta parlate, se no è un casino, va. Riprende Natalino, appena entrato, buonasera. Da parte mia, dai. Ciao Gianni, ho riflessionato la situazione qua, là. Me la sono fatto io il fusibile, l'ho fatto leggerino, in modo che salti subito. Ok, riprendete, là, chi mi ha fatto entrare non ho copiato la modulazione, che ho appena acceso, là. Quel bulldozer ti ha fatto entrare, lì, quello che te ne può buttare la casa, l'antenna pure. E vai, io ti negavo i fantuffi, i calatori e tu sei a piedi, hai capito bella bella, ti sta con le pompe e l'olio idraulico. Ma i cingoli camminano sempre, hai capito? Io ti svolto il riservatorio del gasolio che lo vedi se cammina. Caparrogero là, riprendi da tu. Caparrogero si va per un pieno. Gianni non l'ascolto più, non so se lui riesce a tirarmi fuori perché c'è il PRM alto. Allora capo, ma riprendi copri 2. Ok, ok, riprendo io, Natalino buonasera, ben sentito. Ok, vediamo Gianni dove sei. Sì, sono entrata proprio appena entrato dal bivio di coso, vai, dal bivio di Muros. Dopo il rifornitore, ma esce per i campi, dove va a destra o a sinistra? La prima destra, già, è la prima destra, no? Ma se tu avevi tirato il dritto, ti eravamo più bello vicino da casa, perché ti avevo più fatto pigliare una traversa e ti avrebbe portato fino al campo. Non so, dai, così. Vabbè, sto entrando. Allora, scusate, dai, riprendo io, non le scuse, dai. E qua io devo chiudere per forza. Un salutone generale a tutti, il bulldozer passa a QRT, ce la riascoltiamo alle migliori. Ciao, ciao, ciao. Ciao bulldozer alle migliori, dai. Ciao bulldozer, ce la riascoltiamo, ciao. Ciao Massimiliano, prossime, dai. Ciao Capri 2, buonasera. Massimiliano, ciao. E buon anno, mi sembra che non ti ho sentito a te. Ok, stavo chiacchierando con Gianni che è venuto a trovare dei parenti a Muro, cioè le stavo indicando dove era il campo. Vabbè, ci sei ancora. Ma sembra... Sì. Non è a via Puglia, riprendi già. E non riprende la vera, dai, capito, non riprende la vera, te l'ho detto. Ok, allora, come l'ho detto, riprendi Pierpaolo. A Massimiliano, dai, a Natalino che è appena entrato. Cosa volevo dire? Ma stiamo guidando sempre o ti sei fermato già? Per darti un rapporto di segnale. Cosa? No, sei in movimento perché ti sei abbassato adesso. No, volevo dirti se sei in movimento o se sei fisso per darti un rapporto di segnale pulito, effettivo. Non c'è problema. Capri, una domanda, perché stasera stamattina stavo parlando con un attimino con Pompugno, con Antonello. Come hai commutato l'antenna a più posizioni? Come sei messo tu? Come commutato? Io c'ho io, c'è uno a tre scambi. No, dico, a più di quattro scambi, niente c'hai, a cinque scambi per dire. Capivo, no, ne ho uno a tre e basta, c'ho solo quello. No, perché me ne volete dare uno a Antonello, però è da comporre, cioè c'è solo il commutatore, dovrei mettere gli attacchi a PL eccetera eccetera, poi devi metterti il rame stagnato, ma se c'era qualcuno già pronto, perché non se ne trovano più di questi a 5 uscite, o tirano cifre allucinanti, le paghi cifre da paura, perché la maggior parte dove li ho cercati esauriti, sempre massimo a 3 attacchi. Ma io per esempio allora questa roba che mi hanno dato non rispetta, io ho un catalogo che ci sono disegnati, poi sono andato fuori. Ma vabbè, ce ne fa una strategia interruttore, ma porcheria, non vale niente, non serve a nulla. Il mio non è della strategia, quello che ho anzi, l'ho provato, è un signore commutatore, quello lì, servirà quando installerò le altre antenne. E se non bisogna guardare il catalogo Marcucci, bisogna andare sulla roba, roba di radioamatore. Sì, sì, lo so, se vuole lo trovo, ma non puoi spendere 200 euro per un commutatore d'antenna. Assolutamente, ma un commutatore d'antenna più posizioni lo potrei fare da un commutatore di canale di un vecchio baracchino, ma poi non ho quei commutatori. Me ne parlando uno di un apparato supplasso militare, e diceva che è abbastanza muso come costruzione. Quello discorso ti devi costruire la scatoletta, devi mettere le pielle da pannello, devi prendere la rame stagnata, cioè alla fine vai prima, vabbè, in ogni caso è sempre una cosa da fare così per divertimento. Ok, io avevo anche i cataloghi di questi che hanno delle strutture militari, lì si trova qualche cosa, il volontatore buono si trova, pure gli attacchi da pannello, anche a pannello lì li recupera da vecchi apparati e si fa il tutto. Una scatoletta a fare un po' di ritorno non costa niente. Sì, sì, capo. Allora io sto mangiando, se sentite qualche movimento strano in bocca, un pezzo di pane con un po' di roba. Chi c'è? Carino. E io ci sono anch'io là, io me ne sono la cena lo stesso. La mamma deve tornare, torno a lavorare, mamma mia. Bisogna andare però. Buonasera a tutti, a pace 2. No, già vado io, mi tocca, devo farlo. Quando tocca bisogna andare. Vai Natali, io qua, oia, i tempi che percorrono. Buonasera comunque, circolerà a tutti, riprenderò bene. Sì, ciao Giovanni, ben sentito. Allora ti faccio dopo Giovanni. Buonasera Giovanni, ben sentito. Grazie. E allora, che altro c'era? Ah, cosa c'era? Pierpaolo Angi. Buonasera, sono Mario, ben sentito. E beh, cosa c'è di bello, cosa c'è di bello? Io illuminatemi, che sono al buio. Buonasera, sono Maria. Certo, tu puoi visì. Buonasera, che te tu. A pure io mi sono. Buonasera. C'è anche Capri, facciamo andare avanti a Capri così ci ascolta Gio Maria, avanti che Capri. Forse non c'è Gianni, ci sei ancora? No, tutti morti. Andiamo avanti con Pierpaolo di nuovo, dai. Io ho già salutato Gio Maria e salutoni Gio Maria, buon anno, buon tutto. E non lo devo salutare, no? Cacca, sempre a noi tocca. Parlate voi, io ho già salutato Gio Maria, gli ho fatto gli auguri, gli ho fatto tutto, buon anno, buon tutto, riprendi Roberto. Dica, però voglio sentire se c'era ancora Gianni o Capri, avanti uno dei due, chi mi ascolta, avanti. Niente di nuovo. Avanti Gio Maria, raccontaci qualcosa di interessante, dai, per cambiare argomento. Vabbè, interessante. Guarda, ho fatto un rumore di saldino fino in più. Appena che ho pranzato mi sono buttato così, guardando la televisione, mi sono svegliato poc'anzi. Niente di nuovo, sempre le stesse cose, né più né meno, cosa ci vuoi fare? Magari mi apparavo Antonio. Sono giovanissimi, loro hanno molte cose da raccontarci. Io, alla certa, pia, brumi e basta. Così è per fa. Sono tante cose da raccontare, oggi non ci sono, va. Oh, siamo usciti stamattina e poi siamo tutta la sera a casa. Va bene, fate. Ehi, capita, e capita. Una volta facevamo così, noi avevamo quattro antenne, io e Mario, no? Così che, però Guepio con Mario non è che non ci parlavamo, no, ci conoscevamo, no? E allora lui si incazzava con me, io mi incazzavo con lui, allora a un certo punto era impossibile parlare, no? E io un altro canale e lui in un altro canale ancora. E perché? Perché c'era un ritorno di radiofrequenza enorme, e ma enorme veramente. E allora abbiamo dovuto buttare tutte le antenne, abbiamo lasciato un'antenna solo, ed alla volta no, però il ritorno radiofrequenza c'è sempre, siccome i tiranti nostri sono d'acciaio, non sono in corda, no, sono d'acciaio. Allora, le gravate sono messe sulle fumaiole, quei tubi, io ho un'altra fumaiola e lui in un'altra, e sono piazzati sulle gravate, allora i tiranti sono sulle gravate. I tiranti d'acciaio comunque. E allora c'è questo ritorno alla stacchiata di un macello, però tu quanto sarai? 100 metri, 150 metri da te a me, no? Ecco, e là c'è il ritorno alla frequenza, ma io ti sento tutti i canali, ho provato, prima no, ma adesso ti sento su tutti i canali. Così che ti puoi immaginare, siamo troppo vicini, c'è poco da fare, e penso che non ci sia parecchio che non ti senti, che non ti senta, ecco, è impossibile, ecco, anche se sono apparecchiature diciamo professionali, di risonanza entra perché siamo vicini, sempre in 27 intendiamoci, ecco. Ma è chiaro, per conto via della vicinanza. Gli apparecchi, io quattro apparecchi che non sono abbastanza selettivi, però la vicinanza è sempre vicinanza e quindi entri per la vicinanza, ma è dovuta a quello solo, ma è una questione di logica, poi bisogna fare altri maghi sui comandi della vicinanza. Tu sei vicinanza, potresti di fatto fare solo danno. Questa prega ventuvata avrà messo 3 o 4 volte, e tra un bel danno, ma un bel però un mese, per dire che ci sta ugualmente, non c'è bisogno, è inutile, esatto, disturbiamo, e perché dobbiamo disturbare, per farci vedere che noi arriviamo più forti, non mi interessa la potenza a me, no, li uso potenza e non mi interessa avanti, ognuno sta radio, poi io non esco così con la potenza, capito, lì. Non mi piace, ecco, non mi piace, per cui ci sento ugualmente. Ok, adesso stiamo facendo fare un po' di parcheggio a Roberto, riprende a far girare, dai, tanto è quella la faccenda. Non conviene incazzarci, non conviene aumentare perché disturbiamo troppo, ecco, per cui come io non devo disturbare gli altri, gli altri devono disturbare a me. Così è Roberto. 100%, non ci sono problemi, il fratello un attimo è andato in quel rix, ma è questo che sta utilizzando tu? Che apparato stai utilizzando, che microfono? Il microfono normale, le cose, le cobra 200. Perfetta, la radio è ottima, non è un difetto, proprio c'è tutte le tonalità, come piace a me. Complimenti, riferimento anche a questa è una delle migliori radio in frequenza. Ma me l'ha fatto pagare, Levine, me l'ha fatto pagare, alla sorte che Allora è un apparecchio già sembra abbastanza buono, per cui va benissimo, ecco, sono contento che ho speso un po' di più, ma almeno c'ho un baracchino, ecco, tutto lì. Riprende, vai. Ho ripreso, va bene. Sì, ha ripreso il falchetto, avanti falchetto. No, ho ripreso, mi ha suonato il telefono, niente. No, vabbè, non stavo seguendo il discorso che ho abbassato il volume, vabbè, riprendi tu, vabbè. No, diciamo, tu dico velocissimamente, stavamo parlando di potenza, che non è necessario qua in città alzare troppo, tanto, sono talmente furti i segnali. Però se volevo chiedere a coso, a Pier Paolo, Luca Flipper era vicino a voi, per qua. Cappa, anche lui è vicino a noi, 200 metri da me, pratica. Allora, Luca Flipper, lui ha provato in tutti i modi, con tutti i sistemi, vabbè, aveva una posizione un po' nascosta, non so se era peggio di te, lui Massimo Santiago 8 qua arriva, ma anche utilizzando cose un po' evolute, no? Dunque per me era completamente negativo, poi la radio era stranissima, non ho mai sentito bene a Luca, mentre lui, anche se per dire Antonio più basso di te, lui arriva quasi 9, però la radio la sento bene, ma Luca Flipper è proprio negativo, io non ho mai capito come mai, per lui ero sempre vero. Evidentemente la posizione sua è un po' così, dai, anche lui aveva problemi di antenne, comunque guarda, io da Giammaria non cambierà niente, comunque volevo fare una... Senti, avanti il telefono, dillo tu. Sono sicuro che Giammaria non cambia niente per la data di vicinanza, ma con te volevo fare... Adesso giro tutto il pomeriggio, ho messo a zero, che in pratica dovrebbe dare circa 100 milliwatt. Che sarebbe così, guarda, questo è il pomeriggio tutto a zero. Però può vedere quando si è abbassato il segnale. No, Pierpa, gli ha squillato il telefono, infatti ha detto che se la riprende subito. Ah, capo, ho sentito, Ma adesso Marino non cambia niente, vero? No, non cambia niente, no. Ma poco, né più né meno, capito? Sì, ma è poca la questione. La vicinanza non fa, capito? Perché la vicinanza, guarda, adesso lo smitter, perché questo quando sono attrovate c'è lo smitter a 7. Adesso non lo sa, neanche lo smitter, figurati, sta segnando, il motore lo sta segnando proprio. A me stavo dicendo a te. Sì, a te stavo dicendo. Il segnale che cosa avrà variato? Appena appena. Un pacchetto ha variato, guarda, un pacchetto ma poca roba. Lo so. Purtroppo la vicinanza, no. Ma cosa? Tutta la conferma l'altro giorno che stavo usando quel portatile col gommino, da dentro casa. Anche con un portate arriva bene e nella retrocassa. Se mi metto la finestra aumenta ancora di più e anche quel portate dentro casa vedi bene che arriva. E comunque la distanza purtroppo è troppo breve. Ok, ho registrato il break, è infatti così, è troppo vicino. Bene, c'è stato il break a Roberto e fai l'ultra, dai. Aperto il telefono, dai, fammi entrare tu, Giovanni. Sono occhi avanti, Brecche. Buonasera, ben sentiti qua, International. Buon anno a tutti. Buonasera, International. Ben sentito. E ben rientrato, sì. Come sono andato la testa, bene, spero, sì. Caparogero, mi sto rientrando adesso dalla tour, diciamo, dai. E buon anno adesso a tutti. Ok, grazie, è cambiato tre. Insieme Roberto, Falchetto, Pierpaolo e Antonio, che ti mando subito Pierpaolo, vai. Sei a ben sentito, contraccambiati gli auguri di buon anno, Avanti Antonio. Sarebbe sentito e contraccambiati gli auguri di buon anno. Sto rientrato comunque. C'è il radio intermesso, non è. Ma è interessante, grazie a no. No, feste passate bene tutti? Che cosa? Ho usato il duro? Adesso ne siamo trovati nel bar di Donisci, là e ne siamo fatto. Vabbè, no, è un amico della parte Charliacqua che lavora qua, capito? Per cui sta rientrando dal suo cucchiacca verso Sassari, capito? Non è Salvatore, ecco, dimmi come si chiama, dimmelo. Vabbè, te lo mando avanti, vuol dire che te lo dici lui direttamente, non risulta per l'amico, vai. Negativo Salvatore, Walter, negativo Salvatore. International solo, non Radio International, International. Sto facendo male, no, scusami, ti ho confuso con un'altra persona. Se non avevi questa persona che dicevo che si assomigliava alla modulazione, con un certo tipo di apparato, ma non sto facendo bene di radio, sembri un po' paperino. Si dice, infatti da 9 e 20 a scendere a 9, a 8, a 6, c'era poi qua. Avanti, fa... Stavo dicendo la radio, barra di International, che in effetti confermo quello che dice Roberto, è un po' nasino. Se non ti ho copiato bene, l'amico, non ti ho copiato bene. Io non lo sento, Roberto. Sì, no, da ascolta, ma dove sei? Che zona sei? Perché ti sei abbassato molto il segnale. Rientrando da Cagliari verso Sassari o Robea. Ah no, ho capito, no, stavo confondendo una persona allora io, no, non è lui. Volevo dire, ma Gianni Doppio Rum e coso, e Capri a Rezzarotto, vediamo un po' se rientrano, avanti prima Capri. Perché stavamo parlando poi di colpo non abbiamo più sentito, vabbè Gianni probabilmente è andato in quella zona dove doveva andare, ha trovato le persone che doveva trovare, vediamo se internet c'è ancora, avanti. Sì, Santa Rotto, sei qua. Dove sei? Ma è zona un po' di coso, chiusa, sei vicino alle gallerie, dove sei? No, già passate le gallerie, già passate, è passato anche i ponti, dai. Sono qua con i camper, ripeto, c'ho il coso, il microfono che è sconasino, e più c'è la mazzata del camper che mi blocca un po' la modulazione, capito? Ah, ti lascio capito, se vuoi interessare del camper che ci siamo sentiti l'altra volta. Ecco, sicuramente per Paolo e Antonio e Gio Maria ti ascoltano molto più forte di prima. Avanti, diciamo Gio Maria per primo. Ma io lo sento da molto prima, lo sentivo, Comunque lo sento sempre lui. Pierpaolo magari forse lo sentirà adesso. Anzi, fai avanti Pierpaolo. No, capa, l'ho sentito poco fa, l'ho fatto il becco, adesso non l'ho sentito più, Mi è scomparso il radar. Si trova dopo le punte adesso, capito? Sta andando verso il Papatango. Vediamo Antonio se lo copia. Avanti Antonio. Sì, l'ho copiato. Per un pezzo, il QRM è troppo alto, quindi ogni tanto mi sparisce, capito? Altrimenti l'avrei sentito. E poco fa forse era un po' alto di watt, per quello che lo sentivamo, però lo sentivamo saturo. Perché sta camminando, capito? Così che c'è anche quel servì molto che c'è. Dovrebbe copiare anche bene il palchetto, perché vai? No, negativo, io l'ho copiato un pochettino, poi non l'ho copiato più. Dove sei Internation? Adesso passando San Giovanni, sto quasi arrivando alla stazione, dai. Per quello adesso che sono in linea io, dai, ci sentiamo, arrivederci alle prossime. Di nuovo gli auguri di buon anno, ha passato lo proprio del serate. Tanti auguri a tutti e buona serata a tutti. Ok. Mi ha fatto veramente piacere, ho sentito che è rientrato allora e ricambiato tutto al 100, Ciao, avevamo occasione di sentirci ancora, ti picca, qualche vai. Capo, dai, buon rientro con tutto, se ne ascolti e tutte le prossime intermission, vai Roberto. Va bene, anche la parte mia, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, quando vuoi entra, non ci sono problemi, vai per Paolo. Saltone, buon rientro, riascoltarci alle prossime, ciao, avanti a tutti. Saltone, buon rientro, ci ascoltiamo tutta la prossimina. chiedere il dottore un interrogativo, Pietà. Posso? Sì, sì, dimmi. Ok, come si chiama l'unità che stai usando? Allora, questa di adesso è una Stormo 27, questa che uso adesso. Stormo 27 si chiama. Stormo 27, chi la vende? La vende Torino. Non ha bisogno di piano di massa e se rispetti alcune leggi, un fogliettino detto se rispetti alcune misure che ci sono, mi sembra 5 misure, guarda mi sembra da oltre 5 metri, poi 11 metri, o no, 12 metri qualche cosa, poi 21 metri, poi 26 metri, se rispetti quelle misure la risonanza dell'antenna ha le migliori prestazioni, altrimenti si può usare anche con qualsiasi cavo, non ha le stesse prestazioni però non ha bisogno né di massa né di niente, puoi attaccare dove vuoi. E ho che Torino, c'è la GBC, no? Torino, sì, la GBC. Ma per un amico mi stava dicendo che serviva un'antenna, per cui già poco a posto e forse andremo lì a prendere là. Va bene, grazie ancora. Ne approfitto e vi saluto tutti cordialmente, grazie alla chiacchieratina e chiudo, che c'è gente, dai. Vabbè, a te fai dire il tuo e collaborazione circolare a tutti, chiudo. Ehi, ok, Maria, buon tutorial, buona giornata per domani. Avanti, Falchetto. Buon tutto anche da parte mia, Giovanni, a domani se coincide. Avanti, Pietro. Ciao Maria, buonasera, buon proseguimento. Ce la riascoltiamo nel prossimo, ciao. Ciao Maria, dai, ci sentiamo alle prossimine. Comunque è Midland la marca, vabbè. Ciao ciao Gio Mario. Ok, buonasera a tutti. Riprende lui. No, sto pensando a una cosa, a Capri, ma ha detto che stava mollando il microfono, perché stavamo parlando, poi di qua si è interrotto, come che mi fosse mancata la corrente, come è successo a me l'altro giorno. Però poi non ho sentito più niente, avete sentito qualcosa? No, negativo, non ho sentito niente. Con Pietà tu hai sentito qualcosa? Non so, siccome gli ha detto di andare un attimo a salutare, darsi gli auguri, a meno che non si siano incontrati con lui e stiano facendo una chiacchieratina in verticale. Sì, infatti ho sentito che si è fermato di colpo. Va bene, comunque rientrerà, dai, avanti. Sì, ho capito la parte finale del discorso, comunque era una domanda che ho fatto io, perché hanno parlato anche cosa, Falchetto, un pezzettino della modulazione che ha sovramodulato, non c'è problema, ho capito tutto quanto, quindi ripiloghiamo Antonio, Pierpaolo, Falchetto e Roberto, se c'è qualcuno che vuole entrare batta un colpo, avanti un attimino di bianco, lasciamo, vediamo un po'. E questo. Avanti se vuoi entrare, dai, senza fare il bip. Pensavo fosse qualche domanda. No, ha fatto lo scherzo. No, avanti che vuole entrare sotto le 5, la porta aperta, ecco. Io Falchetto, tu non li vuoi fare manco con me, perché ti conosco la segnale, perché non mi ha fottito perché ha fatto troppo veloce. No, non ero io sinceramente, ma ti giuro su tutto, lo sono io, No, non giurare, non c'è bisogno. No, mi sembra di tu perché questo posto segnale 9.40, 9.35, sono pochi che ci hanno. Chi è allora avanti? Ah, c'è un montito. E un altro, me. Toccatevi avanti. Tu e Falchetto ci avete lo stesso segnale, più o meno uguale. E ti ho fregato. E così schiatti. Vabbè, perché ci avete il segnale uguale. Se no, già non mi avevi fottito. Se ci fosse stato solo tu o solo Falchetto, già non mi fregavo. Ragazzi, non faceva più 27 e 30 secondi, se non ti avrei fatto vedere, ti avrei fatto vedere a 9.60 e l'altro non avrei 9.40, mi avrei fatto impazzire. A proposito, scusate un attimino, e perciò, guarda una cosa. Dimmi. Guardami questo segnale, non parlo, e poi tra un secondo ti faccio un altro segnale. Guardami prima questo. Vai. Cos'è cambiato tra uno e l'altro? Riparlo perché non l'ho visto. Allora, Quale sei a zero, Come c'è tu, non mi attacco, ma ogni rumore di camera termarica, si intende. No, sono di camera termarica, in camera termarica sì. Se mi dentro lo scaldabagno, un rumore di metallo, si sente allucinato. Esagerato, non ho toccato nulla. Ma poco fa ti è andato bene, sembri, c'è un po' di riverbero, sembra una stanza strana, buh, tipo quando entri in una grotta, non so. Ha messo l'effetto catenale. Ah, ce l'ecco, c'è il vero. Effetto catenale, dove hai questa? C'avevamo l'effetto scaldabagno più che catedrale, la catedrale non rimbomba così. E poi sulla camera vuota, guarda, adesso l'effetto della camera vuota, si sente? La camera è tutto alto nero, non la spurchi la modulazione, non mi piace, vedi che è tutto normale. Guarda, così la camera è vuota, senza eco, guarda, figurati, la cameretta è vuota. Si sente? Sì, ma l'ha portato, sento un ronzio sotto. Ronzio c'è? Piccolissimo, ma un po' si sente, dai. Sono l'alimentazione dell'apparecchio. Va bene, dai, non c'è problema. Avanti, Antonis. Un cuore a me arriva sempre basso, cazzo. Invece Falchetto no. Falchetto è più forte di lui. Vabbè, Falchetto vola alto perché c'ha le ali, Antonella invece vola basso, non è così. L'importante è che non vola alto fra il culo, se no perché lui è alto, perché c'è l'antenna su lì, c'è l'antenna giù. Vediamo, sicuramente la posizione è completamente diversa. E qua arriva bene Falchetto. No, perché Pomponio è l'uccello paluro. Sapevo io, l'ho detto prima io. Ah? L'ho detto prima io, di parte che non vorrei altezza del culo, ho detto. L'uccello paluro. Di parte che mi senti. Non c'è problema. Sicuramente da come stavi giù prima al centro sud, da parte mia è quadruplicato. Lo so, che devo salire a Malta, ma qua, uno di questi giorni, la salgo qui e mi pare che la piazza a un metro da terra, mi faccio mettere il piede in stallo e la metto un metro da terra, gira. Sicuramente è meglio di quella che sta utilizzando adesso, ma sicuramente, magari non renderà al 100%, ma sicuramente ti farei sentire molto, ma molto più forte. Ma metti la sorte di questa luna buona. E così me ne scende il pesetto giù insieme allo stilo. Infatti già pesa poco la mano, ma 3 kg pesa. La turbo, no. Vuoi fare capisano, sai che... Tanto questo periodo qui, tutti, ogni giorno sì, 4 mesi, lo stesso è sempre il vento, cioè. Boh. È una cosa strana quest'anno. È un vento, ogni settimana c'è sempre il vento. Boh, un vento caldo, un vento di quello, un vento di quello. Ciao, vabbè, ben sentiti, un po' in ritardo ma ce l'ho fatta. Vabbè, ti stavo aspettando questa volta, vabbè, ho avuto qualche problema. Comunque sei in compagnia mia, di Falchetto, Antonello, Antonio e Pierpaolo. Poi c'erano poco fa 3 persone che sono andate via e poi non so se Capri si è allontanato, che cosa c'era anche Capri, che già da un po' una mezz'oretta che non lo sentiamo più. Comunque ti rilancio Pierpaolo, per i saluti, avanti Pierpaolo. Capa, buonasera, ben sentito. Ciao Pierpa, buonasera, ben sentito anche a te. E vabbè, non ce l'ho fatta perché mi hanno chiamato, ci sono 2 persone anziane che abitano in qualche casa, avevano necessità di una cosa, sono entrato, no, li ho messo a posto e quindi mi sono trattenuto per quello. Ma appena ce l'ho fatta mi sono subito svincolato. Non c'è problema, non ti preoccupare. Avanti, Antonello. Sì, ciao, sabato, saluto di Benedetto. Fiaschetto, riprenditela. Ciao, Salvatore, ben entrato. Riprenda tu, Lio. Ciao, Salvatore, Salvatore, ben entrato. Ciao, salutoni a tutti, Tonello, Fiaschetto e Antonio, ben sentiti. Ok, riprendi che ti faccio sentire che ho messo la batteria in quel mic che su quel salento, a vedere se c'è differenza, a vedere se funziona. Anche le forze ti hanno sovramodulato, che è avanti. Salvatore l'ha ripetuto fiaschetto, invece è falchetto. E mi ha fatto ridere quel pezzo, capito? Hai ragione, scusa, anche io sono fatto prendere da quello che è tuo, da quello che è Santonello. Ma di battesimo, anche se è il tuo, qual è? Antonio. Aia, no, ci sono tutti Antonio allora, ragione, continua con Falchetto. Io se ci anima, ci animo pure, io mi... io stavo spendendo un cavolo, ma uno il caldo. Sì, sì, è il problema del microfono, hai ragione, lo metto a parte e quando ne ho voglia lo faccio vedere. Sarebbe la cosa migliore. Io stavo facendo un po' di ascolto e sono rientrato. Già ero qua, però non potevo entrare, capito? Altrimenti si sentiva tutto l'ambaradan. Ma che cos'è questo? Lo senti? Come no? Questo è il Presidente Lincoln. Sembri saturo, Natali, ma non sei forte di radio, però sembri che stai saturando. Ma o è troppo forte, dice a me che lo abbasso. Vedi un po'. No, non sei forte, la radio non è di livello forte, però sembra quando perdi anche qualche cosa che sta saturando, che te ne mangia un po' di modulazione. È strana, non lo so per quale motivo. Io non ho toccato nulla, la verità, No, adesso già va bene, dai, questo passaggio c'è. Ho alzato appena il microfono e ho diminuito il rato. Cappa. Allora, c'è Francesco che è in parcheggio, riprendita. Cappa, Rogero, e me e Natalia abbiamo ripreso? Ehi, stavo facendo cosa qua, ho ripristinato la situazione. Praticamente è partito perché era troppo debole quello là e l'ho fatto tornare debole, adesso però gli ricompro i suoi frutti. Cappa, riprendi a tu. Ah, Roberto, Michele, un attimo, un interrogativo, se mi potresti fare una cortesia, Roberto. Dimmi, guardare i fusibili del Kappa da quanto sono i tuoi? Le campe? A 20, no? Sì, io. Ma anche 25 vanno per notte. No, sempre meglio metterli a 20, saltano prima. Attenzione, devi mettere quelli rapidi, perché esistono quelli ritardati, rapidi e ultra rapidi. Non mettere quelli ultra rapidi. Quelli rapidi metto, io ne compro un paio di scatole adesso. Da 15 da 20 me li prendo. E lì li metto quelli da 20. Perché ne ho uno da 20 e uno da 15, ne avevo fatto quello da 15. Come? Dimmi. Un interrogativo, non per farmi i fatti tuoi, no, ma così, mi sono detto, no, però l'altro giorno, la Torino Italia l'hanno già pagata, la tassa si è andata a pagarla. Ma non c'è di 30, ancora non pago nulla, io pago il 30, scade il 31, entro il 31 la pago, e poi mi dà lega tu, gli hanno informato male. La Torino Italia l'hanno già pagata, confermato, la Torino è confermata. 12,2, 102, l'abbiamo già pagata io già. E non di due sedi in attività. Come? Noi due sedi. Vai su internet e lo guardi. Aspetta che faccio sentire, sono andato qua, ci sono. Sì, ma continua quella che sto parlando a capire come è successo il cemetteriato. Guarda, non ci sia la batteria che non faccia bene contatto, che sia scarica. No, la batteria gliel'ho messa a nuova, adesso sto provando a chiudere i contatti, tanto è vero, voglio chiudere quello. La stessa portata. Qualcuno che non esce di radio, evidente. Radio. No, è portante la tarina. Tarini, lo passo. Sotto sì. Cosa, ma non si capisce. Stai uscendo basso di radio, Oh, vabbè, ci sei. Sotto sì, dai. Ma come parla? Prova a parlare tu, Natali. Io sto parlando. Non lo so se sono sopra o sotto. Ottone qua, eccolo qui, vediamo se regge. Mi sentite? Cambio. Ehi, già ti sentiamo. Mario, ma tu sei che metti la portante e non esci in radio? Sentito mi hai? Ehi. Adesso negativo, evidentemente e siamo menti mali. Sicuramente qualche problemino. Anche troppo, se pure si abbassa leggermente. Ah, Beata, Lucy Beata. Hola. Ma adesso sei troppo basso. Guarda così. Ho ripreso? Sì, adesso va bene, va bene. Adesso c'è una radio che va bene. Ok, chi è che avanti che ha detto che ha ripreso? Falchetto, sono ripreso. Sì, ok, va bene. Vabbè, riprendi. Roberto, puoi sentire questa radio? Oh, interrogativo, Pietà. Stamattina una tipa che si chiama Giulia è entrata. Sì, stamattina è entrata una tipa che si chiamava Giulia. No, no, perché la conosco abbastanza bene quella signora, eh. Oh, no. Io in realtà non so neanche da dove muovo, Oh, è questa macchina, dove mi piace? Confermo perché la signora che conosco io è molto alle mie parti. Mezzogiorno. Non te lo guardi. capisco, comunque le vediamo, là, se ti posso, perché è domenica gioca la prima squadra, no? Cioè vado domenica, mercoledì, non so se ci vado, perché oggi per dire non ci sono andato, non avevo voglia, mi prende, se una giugana già vengo, là, già mi sono divertito, e anche mia figlia si è divertita. Dimmi una cosa, Roberto, cosa avete fatto? Me l'ha detto, io ho vinto la partita, abbiamo vinto 2-1 in trasferta. Una squadra che tra l'altro dice che è anche forte, una delle prime. Sì, ma cosa, tre Gelighes, no? Sì, tre Gelighes, però non so cosa c'è in classifica, non l'ho manco vista. Ma è messa bene, io non l'avrei messa, c'è andato qualcuno più avanti di voi, mi sembra che sia, Non li sto seguendo le classifiche, dai. Il prossimo lavoro può essere avanti di noi, comunque, eravamo già una bassa, no? Vabbè, facciamo riprendere anche chi c'è, Falchetto, che se no non vogliamo, perché non so che è un altro Falchetto. Sera c'era una portante così tutta la sera, mi cerco di confermare anche Falchetto. stasera c'è la vostra portata, Roberto. Cappella, non c'è problema, devo dire che si farà divertire, a me non mi sta disturbando adesso in questo momento, non credo neanche a voi, continuiamo a parlare, dai, poi vediamo di intervenire diversamente. Ok, Samantha, riprendi e avanti. No, volevo chiedere a Delpano, ma Delpano, quello che ti affacci dove abiti tu, un campo di calcio a 5, vedi? Che cosa? Quando tu ti affacci dal tuo terrazzino, vedi un campo di calcetto dalla scuola? No, negativo, non c'ho nessun campo di calcetto io qua. Io se mi affaccio vedo la strada, la butti butti. Ah, cappa, no, siccome la Torino va insieme a Roberto, abbiamo visto due antenne, e avevamo un campo di calcetto, abbiamo pensato che dove l'abitavi tu, c'era una mini Grand Prix su un balcone, e cos'era Roberto? Una mantova mi sembra sul tetto. Non so se era la manta, ma forse non era la manta, ma simile alla manta, ma però era più piccolina. No, negativo, non è roba mia quella, no, no, no. Sì, me l'ho già parlato, ma non è roba mia. Ma hai capito dove eravamo con Roberto? Io ti sento bene adesso, come mai? Pierpa, hai capito dove eravamo con Roberto? No, non ho capito bene, me lo ripeti. Ha detto, hai capito dove eravamo? Adesso sto uscendo bene, Robert. Sì, però senti, ma con calma, sì. Oh, sono col Galaxy, lo sto facendo lavorare un po', me. Infatti, infatti si stava preoccupando, sarà il capo, ha detto, no, mia, sarà, non è successo niente. No, sta dicendo per basso, hai capito dove sono queste antenne? Se vedete le scuole, cos'è via, ma scambio, era un cavallo, lì c'è un campetto di sintetico, e c'è una casa di fronte, una palazzina, mi sembra grigia, colore o azzurrina, boh. E c'è, nel terrazzino c'è un'antenna piccolina, una Grand Plain, tipo Grand Plain, e sopra ci sono due antenne simili alla manta, ma proprio piccoline. Che ci sono quelle antenne sue di quella di Amatore, ma che avete proseguito lì, come ovvio Bellini, come si chiama? Boh. No, c'è anche, no, sono due mantova solo. antenne più piccole, non so come stai dicendo tu, tu stai dicendo di fronte alla Conad, più su, fai 300 metri più su. Scusate, mi è venuto un cane a casa. qualcuno in casa. Gianni, sono stato a casa, mi ha fatto una sorpresa. E così vi ho fatto vedere che rompe un po' di Turner di vari apparati, quelli che ho potuto scendere, perché la stazione ce l'ho creato lì sopra. Non vedo, non ho capito. E prima di portare gente, devo chiedere come fa. Abbiamo che comunque gli ho fatto vedere l'Argus, gli ho fatto vedere, insomma, il campiere 740, i toccai, un po' di microfoni, Turner. E così una bella famiglia c'è Gianni, riprendi un bel. Sì, cappa. Allora c'è anche Salvatore, adesso lo rilancio di nuovi, di quelli che non hai sentito prima. Allora Salvatore per Capri, per Gianni Capri 2. Cappa, saluto le Gianni Capri 2, mi hai sentito? Ok, no, sono passato al cappa, bene, so che l'ho inventato il cappa, Roberto. Allora sono più comodo, dai. Sì, sento meglio, ormai non sono più abituato, mi stavo facendo gli orecchi di porco, non si va più a sentire. Ebbene, date una sbirciata a quel libro, come ti sembra? Sì, ho avuto c'è un sacco di roba interessante, anche se mi sono venuti un paio di dubbi, perché le cubiche, se le metti a una certa distanza, a un certo orientamento, i radi hanno una direzione, mentre se le metti girate in un'altra posizione, i radi hanno completamente una direzione opposta. Infatti quello di cui alla fine leggendo ho capito da cosa dipende, anche se ho visto certe cose che sono un po' particolari. Infatti conviene chiedere quanto costa nuova, Salvatore, perché ci sono delle cose di adattamenti di impedenza e non è semplice farlo. Per avere 52 ohm devi mettere 4 riflettori, cioè 4 elementi uno dietro l'altro. Aspetta che te lo passo, ne ho altre due, ne ho che tanto non sono leggero, te le passo e te le guardi con calma, Roberto. Non c'è problema, non ho problemi, grazie Salvatore, già lo sei. E argomenti tecnici mi sono sempre piaciuti, mi adesso sto rispolverando qualche CQ che mi ha dato tu, ogni tanto me ne guardo qualcuno, tanto per leggere, e farmi delle cose. Mi ho trovato un vecchio CQ dove c'è quello M2000 che c'è tu dalla Magnum, te lo farò avere così ti guardi la recensione di quel tuo opera. Ma cosa te stai dicendo? Sì, c'è tutto lo schema elettrico, prestazioni eccetera eccetera. Allora, bello, a me piace anche esteticamente, perché di vecchia generazione c'è una bella scala graduata, accorda su da 0 a 30, così fa, Salvatore. No, da come detto? Sì. È importante quello, non sono tutti che lo fanno. Avanti Capri. Buonasera, ti aspetta, Vattore, mi hai sentito, buon anno e buon tutto quello che si può dire in frequenza. Io quando ho parlato di queste cose ho detto sa che non mi piacciono e quindi non ascolto e riprendi Salvatore, sono un grande appassionato, riprendi. Cosa cambiati gli auguri di buon anno e anche a te tutto il cuore familiare Capri. Mi sembra che piaccia un po' a tutti, ci piace avere buone antenne. Poi Roberto è uno che condivide molto con gli altri quello che legge e quello che vuole mettere, che vuole applicare, quindi fa piacere con lui. Ok, ma qua abbiamo un altro esperto di Capri, le antenne, forse veramente è un esperto grosso. Marcellino, fatti avanti. Sì, già mi conosce Gianni, a me non c'è problema, già mi conosce. Magari non so delle antenne, ma già mi conosce. Beh, che lo so, Marcellino, se ti diventi a modificare antenne, io so tutto di quello che fate e di quello che non fate. Ma anche io so col fine di puri tutto quanto, solo che qui non c'è spazio per spendere, bisogna che mi riporti in casa, se avrei abitato dove c'è la campagna lì. L'avrei fatto io un orticello di antenne, come si deve, poi sono penalizzato, anzi c'è una break che mi sta toccando sul sesso. Niente, Natalia, so che ti diventi molto per le antenne e fa piacere, se vuoi c'è anche qualche... Ah, quella roba la salino con la copiata all'estate, la regolare. E diciamo che come antenne mi hanno detto che tutti arrangi molto bene, Natalia. Io sono contento di quello, ti rimetto il cambio. Non c'è problema. Cosa ti volevo dire? Anche questi due amici che ci sono qua, Roberto e Salvatore, sono scesi con me la scorsa sessione. Allora, ascoltatemi bene alle orecchie, se venite a mettere bene. Adesso, di questa roba, io so poco stessi non ci sono problemi, non ti preoccupare, però anche agli altri, Natalino e Salvatore, diciamo, io ripeto per l'ennesima volta, io ho cercato di studiare, non sono andato preparato, però purtroppo, come posso confermare Natalino e Salvatore, c'erano argomenti che non ci immaginavamo minimamente che trovavamo, che avessimo trovato. Purtroppo è successo così. L'ha detto anche, io ho parlato dopo qualche giorno con l'esaminatore, uno di quegli ingegneri che c'era dietro, purtroppo siete stati sfortunati perché due sessioni prima erano passati tutti, tranne una ragazza della Maddalena. Su 23 ne sono passati 22, per cui c'è stato una strage hanno fatto. Speriamo che la prossima volta sia un po' meglio. Comunque a maggio non ce n'è sessione, ti ripeto, l'hanno già detto, come ho confermato, ce ne sarà una come si è detto l'ultima volta verso fine ottobre. Ok, allora bisogna che io tutto il tempo di scendere con queste donne che sono al ministero e di mettermi in contatto con Pizzarisi e con Pizzarisi, perché se io le illustrerò a Pizzarisi che l'esame deve essere basato sulla norma che è stata studiata, non ammettere di fare cose che non riguardano il programma, perché sicuramente mi hanno detto, non lo so se è vero, che c'è stata messa rotta che non riguardava il programma di Radio Amatore. Vabbè, aspettami, conferma e tu fai girare. Ti sono una cosa al volo, ti dico, tu conosci quella persona che ha nominato bene, Alessandro Pizzalis. Sì, domani te la porto, la carico domani mattina e te la porto, tanto non passare da Rondetta per rientrare. cosa, non aveva commesso per il fratello, quindi la signora Roberta e poi tu ti metterai in contatto con lui. Ok, quindi non ti preoccupare, già, me lo sono già ricordato, guarda, anzi faccio di più, stavo per te, sono andato fuori, lo metto già dentro la macchina. Ok, perfetto, buon correte e saluto alla prossima volta. Vedete in alta lì. Comunque a malincuore, hai capito, non lo fa, riprendi un attimino. situazione. Ma l'hanno visto anche gente in alto che la cosa non è fattibile, perché non è più una cosa per, diciamo così, per radionatura, è una cosa proprio per gente, per ingegneri, là. E poi non, c'erano cose che non ci riguardavano assolutamente a noi, capito? Cioè, devono essere cose che riguardano a noi. Di calcolare l'amplificazione. l'applicazione dell'antenna di un transistor o cosa del genere, con il coso, con le formule ci riesce. Però quando ti fanno vedere un circuito con tanti componenti e devi sapere come lavora quel circuito, lì è un po' più complicato, lì ci deve essere qualcuno che te lo spiega, perché lì non è così semplice leggere un circuito. La cosa è che tu sei praticamente in serie in parallelo di resistenze di condensatori, di bobine, eccetera, eccetera, ci puoi arrivare con ragionamento degli studi. Però quando ci sono diversi componenti messi in un certo modo, devi capire che il diavolo fa passare la corrente solo in un verso, per cui quel tipo di tensione non può passare in quel modo lì. Ci sono tante cose che se non te ne spiega uno non è semplice da fare, ne hai capito? Siamo come si chiama dei colli di antenna, delle uscite, e io parto sempre da come si chiama, dall'uscita fuori, dal primo stadio, secondo stadio, le medie frequenze, qui da conto, quelle cose lì. Ecco, quelle le nozioni che io, però le formule, quelle cose lì dobbiamo essere sicuri di quello che stiamo facendo. Se abbiamo dei dubbi, come tu il circuito che dici tu che ci vuole un ingegnere, queste cose noi dobbiamo andare, ecco, infarinati di sapere, perché non penso tutti quelli che hanno la patente che sono all'altezza di fare cose, almeno qui, però in continente sento gente che si costruisce le stazioni da solo. Riprendi Natali. Ma non ci devono essere robe così, perché è una cosa, un hobby, è un hobby, non è una cosa che ti dà a mangiare, tipo la licenza di trasporto che hai preso tu, ecco, quindi non ci devono essere cose professionali, a livello professionale non ce ne devono essere, ci devono essere le normative, quindi giusto che ci sia, ma che uno le sappia, il codice Q, il codice Fonetti, tutte quelle cose uno le deve sapere. Cata, ma non mi vuoi dire, Cata, in che classe funziona questo amplificatore, dipende di vedere il circuito, ti dici, oppure roba di internet che uno non gliene sbatte niente, eppure Cata, la prima volta che sono andato c'era anche roba di internet, non, roba di antenne satellitari, cosa cavolo me ne frega a me della televisione, non ci compreso. Infatti Natali, no, allora, se io riesco a fare quella roba, come dicono loro, non faccio più l'autista, bensì mi metto un laboratorio, mi metto e faccio un tecnico, ma di cui mi avverrà meno, me lo metto a Roma, se sono così colto, ma in una grande città, e vedi che faccio i soldi. Questa, come stai dicendo tu, Natali, si tratta di una roba per parlare, capito, la sera, scambiare, possiamo essere esperti in un microfono preamplificato, ma no, in certi circuiti che uno da uno schema. Sì, no, adesso ci ritorniamo, stiamo già ritornandoci su un argomento, abbiamo già discusso tempo fa, immediatamente dopo l'esame, eccetera, eccetera, per cui lasciamo perdere, sennò non riusciamo più, ci vuole qualcuno che ti aiuti su certe cose, almeno darti un'infarinatura e sperare che quell'infarinatura che ti ha dato ti sia utile, perché c'è il rischio che magari ti insegni qualche cosa e poi assolutamente non c'è niente da fare, di quelle cose lì non si va a niente. Io ripeto, come ho detto anche a quella persona che ha nominato tu, perché io mi sono sentito per telefono prima dell'esame e dopo l'esame, una persona veramente in gamba, tra l'altro anche non è uno di quei presuntuosi, ci abbiamo chiarito, è stato lui a dirmi ci venga signor eccetera, non facciamo il cognome, che sono sicuro che lì la prossima volta sarà un po' più fortunato. Ecco, c'è un computer al ministero a Roma che ci sono più di 1000 domande, questo qua estrae delle domande senza nessun criterio, non è che ti dice 10 di formale, cioè 10 di normative, 10 di codice Q eccetera, le può fare una del codice Q come è successo a noi, una delle normative come è successo a noi, il resto tutto domande tecniche. Non c'è stata una divisione di importanza, mentre io avrei dato l'importanza alle normative, per dire su 30 domande, 20 domande su normative, 5 domande in codice Q e 5 domande sull'elettronica. Così sarebbe più logico, perché la normativa è la cosa più importante, di sapere che tu non puoi usare certe frequenze, non puoi usare certe potenze, non puoi disturbare certe cose, cioè tutte cose della patente, la validità della patente, cosa puoi fare con la patente, eccetera. Quelle sono le cose indispensabili. No, che non me ne frega niente che una valvola per essere alimentata deve utilizzare una tensione, deve assorbire tanta corrente. cioè sono cose che non vanno oltre il campo di un radioamatore, almeno di un radioamatore medio, se parliamo di ricercatori e di persone che fanno per lavoro un altro discorso, ma sul 90% delle radioamature, il 90% sono come dico io, 10% sono dei professionisti, nel senso delle persone che lo fanno per lavoro. Infatti quello non è, capito? Non è che uno deve essere subito in grado là, di fare con la roba via satellite, la TV. Allora tu mi stai, diciamo, pretendendo che io sia un genio, e un genio che io fui, sto andando a dare la roba alle prime armi, capito? Allora sono tutti fortunati, fanno un corso di non so quanto dove, durato la tua volta il corso, e ne sono tutti dei geni, dei radiotecnici, per non dire degli ingegneri elettronici. Riprendi Salvatore. Stiamo condividendo le stesse cose, tutti d'accordo. Purtroppo non stiamo, come si dice, predicando nel deserto, perché quello che diciamo noi non è che possiamo, forse quello che stai dicendo tu, magari avere un contatto con loro e chiedere magari delucidazioni su quello che hanno intenzione di fare, ecco, forse è quello Gianni. Però ripeto, per me l'unica è insegnare, come stai dicendo tu, un ingegnere e cercare di prepararsi un po' di più in maniera da arrivare ancora più preparati, ancora di più, perché in maniera da poter affrontare con più serenità anche l'esame. Buonasera a tutti, insegna all'università, sa cosa c'è per Paolo, un attimo. L'università è venuto da, non è del mio paese. Niente, così è la roba, però anche gente lo sa, proprio la parte di ti fa osservare che loro qui non è così. Non è così, adesso noi intendiamo di organizzarci e di fare la roba, consultiamo i testi, consultiamo i libri e poi se vogliamo qualche altra imparatura facciamo come vi ho detto io. E però quando io telefono a questa persona, glielo dico, che l'esame deve essere fatto per persone, glielo dico al responsabile che ho fatto il nome poco fa, dicevamo per chiacchierare, ha capito, che qualche nozione la dobbiamo avere, che però non ci serve, capito, a tutte le cose che ce ne nove l'attimo via satellite, capito, noi accenderemo l'apparecchiatura, schierare. Un attimo per fa. Chi sei tu per fa? Antonio, sono. Che sta parlando Capri? Cose assurde che come hanno chiesto a Roberto, però un minimo di preparazione la dobbiamo avere su queste cose, il primo per. Guardatemi, non c'è per Paolo, sta cercando di entrare, avanti per Paolo. Che lì è cosa c'è anche cosa o per la pizzeria? La pizzeria mi interessa, quello è un altro paio di cose, quella non mi interessa. Mi pare che i ritorni almeno una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, giusto per farci la preparazione all'esame. Un tipo di ritorno che a noi non ci va a fare scatole nessuno. Senta Giulia, io c'ho tutto quello che volete, già lo sono Natalino e Salvatore. Non per le scatole nessuno. Ma c'è abbiamo 42, cos'è detto Natalino? Qua a casa mia e non ci sono delle scatole nessuno, perché ci sono solo io qui, c'è la sala là che va bene, ci stiamo tutti tranquilli, non c'è problema per fare quelle cose lì. Ok, va benissimo la salire, però non vogliamo creare disturbo più di tanto, io penso anche al mio posto a casa andrebbe bene, però lo sai cos'è? Ogni tanto le vivi uno suona, non stati di no, cioè non voglio fare, quando ci viene una persona in casa che c'è gente che capito che mi disturbi proprio, che questa è una cosa anche delicata quando siamo presi in una discussione in tutte le cose che dobbiamo affrontare per fare l'esame, perché molte volte ci viene gente, io so, la porta mia è sempre aperta, la porta lì, anche stasera non so girare con l'amore, però ci viene gente, molte volte si trattiene, si capisce, e poi si perde solo tempo. Ok, riprendi Salvatore. Sì, ma diciamo, forse per poterci riunire ce l'abbiamo, cioè, se no c'ho anche io la possibilità di avere la camera, contro dipendente, non c'è problema, quindi l'ultima cosa è che dobbiamo avere contatti prima fra di noi, in maniera da avere da averci possibilità di venirci, quindi il primo passo è trovarci. Io non so se, Robert, ma tu hai possibilità di metterti in contatto con Giulio o di fuori alla radio? Di metterti in contatto con chi? Con Giulio, di fuori dalla radio, c'è possibilità, cioè c'è anche qualche numero di telefono suo? Ci prenderà contatti con te e organizziamo tutto. Vai, Natalia. se fosse possibile far partecipare Adriano. Scusate l'intromissione, come esco al baracco? Sì, se ne va bene, Santiago 8, Radio 5. Sì, Marchetto. No, Roberto, sono chi sei? No, sono Dimonio da Proale. Da Proale addirittura, sta arrivando una bomba qua. Dove sei adesso, scusa, da Sassari? Sassari città, sì, sì, sta andando benissimo, Radio 5 è perfetta, Santiago 8, 9 quasi. Ti ringrazio, scusami se chiudo, stavo solo sistemando il baracchino. Buon fine di giornata e buon tutto ragazzi, buon proseguimento. Cappa, ci sono Salvatore, vabbè, proviamo, seguendo, se ti rendi stanca c'è Salvatore un po' più lontano. Avanti Salvatore, se l'hai sentito. Cappa, buonasera amico di Proaga, sì, lo sento, oggi non c'è QRM, quindi anche se sono in basso li sento. Ma qua, prova, mi stai arrivando Santiago 3, però la radio è abbastanza comprensibile. Ma meglio così, dai, dove ti trovi tu in distanza? E io sono a 10 km da Sassari, sono ottava, tra Sassari e Colottore, la cosa pensa. Ah, capisco. Buono, dai, vi auguro un buon proseguimento e vi faccio i migliori auguri di buon anno e buon tutto, ragazzi. Cappa, per me se ci contraccambi le segni e il rapporto, se ti ringraziamo. Come stiamo arrivando le attuali? Basta, ti uscendo a segnale pieno, siete intorno ai 5 alto e 3 basso. Sì, perfetto, beh, sicuramente, vabbè, vai tu per un controllo. Sì, l'amico la quale, dammi un controllo anche a me di segnale e di radio. Tu sei più alto, tu sei tra i 7 e i 5. La radio va bene? Perfetto, se andate in cabina qua del camion, io sono autotrasportatore. Ma vediamo Natalino un attimo e poi c'è uno a Muro, se vediamo Gianni da Muro come l'ascolta. Ok, ciao Demone, buonasera, ben sentita, non so come ti stia arrivando, io dai, avanti. No, anche tu mi stai uscendo abbastanza bene, però devo dire la verità, le 17 stanno uscendo più puliti. Ma poi questo è il sapere, certo. Poi c'è Gianni da Muro, avanti Gianni per l'amico da Poale. Ciao Demone, ho ben sentito, a bomba con lo scala, non so come li ascolti, tu a me cosa sono le più. Comunque stai uscendo abbastanza, sei migliore tu di quello di Sassari, ma c'è anche più vicino a me. Sì, ok, comunque ne arrivi a fondo scala a me. E non so se rimani in frequenza, altrimenti è che rilancio il tutto a Salvatore, avanti Salvatore. Ok, perfetto, allora, comunque ci facciamo sentire, l'importante è quello. Niente, allora d'accordo così, va bene, tra colazione era d'accordo, Natalino poi ci farà sapere tutto quanto e poi ci organizziamo. Ok, cosa c'è altro da dire? Vabbè, ci facciamo un'altra avventura, al limite ci facciamo un'altra scampagnata in quella zona. E a vedere Cartagine andiamo. Più che altro, almeno quello è stato bello, me ci siamo divertiti. Non tanto per il coso, per l'esame, che poi il risultato è stato negativo, ma mi sono divertito, dai, è una bella esperienza, dai. Anche se l'abbiamo fatta un po' in fretta. Ci ho rimesso il cappellino, ma va bene lo stesso. Ma ti volevo dire che quando mi hanno stati consigliati dei testi a me, no, da studiare, uno è questo qua, questo quello di Neri, Mario Neri, che dice che in effetti si dovrebbe studiare questo testo, che si chiama Radiotecnica per le amatori. Faccerò quello, io sono a posto. Apposta, dicevo dicendo, Natalino, se ti indicano quello, se ti dicono, se studi questo, poi insieme ti danno anche temi d'esame per la patente della natura, se è per questo medio veri, non deve essere uno stupido, perché insomma se fa dei testi e ti prepari su questo libro, e poi ti dicono il contrario, ti danno nuovo il contrario, insomma devono avere chiare loro, Natalino. Il fatto che noi già eravamo preparati su quegli argomenti, Salvatore. Però il fatto che ci hanno fatto delle domande che non erano attente a quel pezzo lì. E neanche a nessun pezzo di cui non interessano a noi erano anelenti, capito? Ma è Salvatore, ti voglio dire. Dipende un attimo, scusate. Vabbè. Allora, Medio Neri è il libro verde, il classico libro dei radioamatori, da 25 anni a questa parte, tutti i radioamatori hanno studiato da quel libro. Ormai è antiquato e superato, ce ne sono altri più recenti, io ne ho un altro oltre da quello. Io ho studiato da quei due libri più altri libri, sempre di radiotecnica e cose del genere, e poi delle riviste che c'avevo così io, diciamo, quelle sono le istruzioni che leggi così su articoli e cose del genere. Quello di Medio Neri è un ottimo libro, però è superato, non, ci sono delle cose, delle modifiche che hanno fatto, non tanto di elettronica, però ci sono argomenti ormai che sono fuori norma, troppo specifico sulle valvole, cosa vuol dire, ormai valvole sono soppiantate, si va più sui transistor, gli integrati, i processori, eccetera, eccetera. E quest'altro processore nuovo più recente del 2005 che l'ho acquistato io, è molto più recente, è un pochettino più semplice da capire, non è a livello di quello di Neri come approfondimento, però ti dà le nozioni principali. Però purtroppo, come ha detto Natalino, molte di quelle domande che c'erano non esistevano né in uno né nell'altro, e quello è il punto negativo di questi, perché quello di Neri di normativa è un riassunto dell'antiquato, già superato, cioè addirittura ci sono ancora le due patenti A e B, per cui quello è già stato. Quello che c'è invece c'è l'unificazione delle patenti, eccetera eccetera, le potenze, un sacco di cose, per cui è un pochettino i disturbi elettromagnetici, tipo i fulmini e cose del genere, ci sono già in quello che c'è. Comunque non vi preoccupate, io ho tanto materiale da leggere se ne avete voglia. Poi di tutte quelle cose che ho studiato ho fatto un riassunto, sono circa 80 pagine di A4 scritte in piccolo, per cui ce n'è tanto. Io da lì tutto quello che leggevo, delle informazioni, me le ho riassunte in questo addirittura anche i sistemi di comunicazione digitali e cose del genere, io li ho studiate lo stesso. I satelliti, diciamo, di lì ero abbastanza aggiornato, perché sono ammalato da anni, da 95, a quelle informazioni lì, diciamo, se fosse stata domande su impianti satellitari, guardi, lì me li mangio. Purtroppo, come ho detto, sono state domande andavano oltre quello che ho studiato io. Avanti, di nuovo sono andato. Se loro dicono studiato questo testo, appunto per dare l'esame, dicono, danno il testo su quale ti devi preparare o qualsiasi esame, se non vado a fare la patente nautica come l'abbiamo fatta, ti hanno detto devi studiare questo e quest'altro, cioè quali sono, ma non puoi darti dirti studia su da questo testo e poi fa domande che non c'è né in quel testo né in altri testi. Aspetta un attimo, vabbè, vi faccio la leggere di nuovo una cosa velocissima, così vi dico, sappiamo di cosa stiamo parlando. E poi i libri si possono sempre comprare, non c'è problema, le leggi nuove mi interessano, che dobbiamo trovare le nuove leggi, un libro dove ci sono le nuove normative, o sai che la fiducia si pongono tutte le normative nuove, magari c'è qualcosa che mi sfugge, io già faccio tutto, ma è sempre meglio essere aggiornati. Tipi di servitore, schema blocchi, del sistema delle sali degli schemi a blocchi, deve indicare cosa emisce l'attore, l'amplificatore a frequenza intermedia e gli altri studiati. Analitiche dei ricevitori, forma restrittiva, selettività, sensibilità, stabilità, tutti studiati. Trasmettitore è la stessa cosa dei ricevitori, tutto quello che compone con un trasmettitore. Poi, antenne, tipi di linea di trasmissione, tipo la mezz'onda, alimentata al centro, ripiegati, eccetera, eccetera. Poi, caratteristiche dell'antenne, distribuito dalla corrente a tensione, guadagni, polarizzazione, eccetera, eccetera. Poi, linea di trasmissione, cavo bifilare, coassiale, guida donna, e le ho tutte studiate. Due di queste domande io le ho tutte studiate, mi potevi chiedere qualunque cosa. Poi, tipi di propagazione, stati di onosferi, e li ho tutti studiati, frequenza critica, eccetera, eccetera. Principi delle misure, studiate. Poi cosa c'è? Disturbi, protezione contro i disturbi, causa dei disturbi degli apparecchi elettronici, protezione contro i disturbi, protezione elettrica, e poi alfabeto fonetico, codice Q, organizzazione internazionale, segnali internazionali di soccorso, indicati con chiamata, piani nazionali delle frequenze, IARU, regolamentazione nazionale internazionale dei servizi radioamatore, e sono questi sono tutti gli argomenti. E poi, legislazione nazionale, regolamentazione delle condizioni dell'ottenimento della licenza. Io tutte queste cose che vi ho detto, non così veloce, però con tutte le cose specifiche le ho studiate, da due libri, e mi potete chiedere qualunque cosa. Delle domande che sono fatte nei miei libri non ce l'ho. Finisco di lavorare io. avanti, Roberto. Ehi, vabbè, dai. Possibilmente se dobbiamo farlo di venerdì, perché è più tranquillo la partita, perché l'altro giorno della settimana sono impegnatissimo io, almeno se dobbiamo andare a mangiarci una pizza o cosa del genere. Se no fate un po' voi, se vi fa piacere la mia presenza, perché io tutti gli altri giorni della settimana al 99% sono impegnato. Ripeti, Capri. Thank you. carità. Thank you. istituto, nella scuola. Siamo a casa, il parcheggio è giù alla zona industriale. Ma che era perché la pollo ci arriva a questo problema, noi ho fatto già a San Comune e me l'ha detto, questa è tu, c'è carta bianca, però non posso fare perché io ho detto, cosa posso fare? La metto, la lascio vicino a casa, c'è l'amministratore, lo metto lì, la metto in carica, però capito, lo so come mi messo in moto, o se anche lui fare, non vuol dire meno la batteria, capito? Ma dopo metto vicino a casa, lo mettevo. Almeno quando allora, però il nome non me lo ricordo. Rottino, sì, pronto, il cognome è quello che hai detto prima tu di del sindaco, però di Martino adesso non me lo ricordo esattamente, lo sai, non c'ho molto di memoria. Lavoriamo sempre insieme, con esempio e figlia, tra parentesi, pronto e coso, e questo Martino. Se non è, non è Antonio, non lo ricordo, dai, io ti dico cognome, un nome che non è. Guarda, quando veniva io ci aveva sogno, cioè ci aveva sogno. lasciamo pace alle persone che non ci sono, dai. Avanti del fatto. Sono ancora sbagli che si fanno, l'ho stato in pensione adesso. amici, poi se ci troviamo, se parliamo di altri particolari ti dico altre cose io là che qua non si possono dire, lasciamo perdere, vediamo se Antonio c'è ancora. No, poi non ci sono ancora. Ok, riprende Antonio. Che discorso è? Oh, Roberto. Vabbè, l'ultimo discorso stavamo parlando dell'ex professione di cosa? Di Gianni, che ha fatto nell'arma, nei carabinieri, ha lavorato per qualche anno e poi abbiamo parlato di vecchi amici, compagni di scuola mia, uno era paesano suo, purtroppo è deceduto, e l'altro della zona molto vicino. Prima c'era la guerra, a Muros del Casete, ma erano sempre in guerra, non è così? Capi, da quanti anni ci sei tu a Muros? D'Italia, parliamo 30 anni fa, per il fatto del cementificio gli dava un rimborso a spese allucinate, è vero questo fatto? Il mio paese non era quello, Muros, perché il cementificio è ubicato nel loro territorio, il cementificio che adesso lo stanno demolendo, se non state, stanno demolendo le ciminiere, non c'è più niente. Ma sono a Palmarsa, quanti anni che non ci vado a Muros? Non saranno meno di... dai 15, forse 20 anni che non salgo qui a Muros io, non mi ricordo manco come è fatto, perché io ci sono andato a giocare con la squadra a pallone anni fa, ma adesso proprio non so da che parte entrare, proprio poi sono completamente alla memoria. Tutti noi ci avevamo la squadra nei primi anni 80, il Monte Muros era in seconda categoria e ci avevamo la vicepresidenza noi, mia madre era la vicepresidente. Sì, c'era un complottino, giocava con Muros, non so se l'hai conosciuto, se c'eri già all'epoca. C'era un amico della squadra nostra che sta giocando col Muros, è successa quella specie di rissa con l'arbitro, non so se l'hai saputo di recente. No, non sono sicuro più la squadra, io quando c'era Plottino ce l'avevo la squadra, era in seconda categoria. Sto parlando nei primi anni 80, sto parlando, 81-82. E poi niente, poi abbiamo mollato il tutto, piano piano, ci sono delle squadre, non so se c'è la terza categoria, io non le sto più seguendo, perché non è che ero molto appassionato di calcio, ma visto diciamo che c'era la vicepresidenza in casa, capito, venivano i soci, venivano così partecipavo anche qualche volta agli incontri, però poi niente, quando diciamo hanno abbandonato tutto non ho più partecipato. No, io ci sono in mezzo da piccolino perché mio padre fa fondatore di una società e lui il cappuccio diciamo di tutta questa roba. Vabbè, non mettiamo nei particolari. Di nuovo Antonio avanti. Stavo dicendo che avete fatto una partita qua, vero? Allora, Salvatore, l'altro giorno ci siamo sentiti, quando ieri, poi, sì, ieri, ci siamo sentiti per telefono, dai, ci vedo la pallone, allora mi ha detto il pallone, che sono busto, sono tanti anni che non gioco, vieni, vieni, alla fine mi ha convinto, però mi ha convinto che la partita era al Gulliga, all'asciutto, cazzo, poi sono andato lì, no, guarda, non è più di lì, perché ho detto, la conferma, volevo andare a farmi un giro anche, l'ho visto, stavo mettendo male la giornata, ho detto, no, non ci vado, no, non ci vado più, alla ghiera, ho detto, vabbè, già vengo, come se non ci troviamo, cosa, come si chiama? Quella via dove c'è il 7, cos'è? Via Leocca, ho fatto di lì, ma non era lasciato, sono sceso di lì, i primi 10 minuti mi mancava l'aria, c'avevo la gola, non riuscivo a rompere il fiato, allora mi sono lasciato, una di quelle cuffie che ti chiudono la gola, un po' sono riuscito a recuperare il fiato, ma c'avevo la gola, era quella allucinante, poi c'era lui, lo stesso 10 minuti, c'era il figlio, altri amici loro e dei ragazzini in mezzo, ci abbiamo messo, io ero ospite, dai. Come? No, mai fumato in vita mia, no, non sono fumatore. Ma non freddo, mi è entrata aria proprio fredda, quando respiri affannosamente ti respiri aria fredda, che stavo dicendo no, che proprio mi mancava il respiro, nel senso non riuscivi quando fai una cosa che non hai più fiato, allora devi fermare, recuperare bene, e poi già sono entrato, ho giocato tranquillo relativamente, nel senso le gambe erano quelle che erano, come diciamo noi, era già come già, insomma. E allora ti capisco. Sì, stavo parlando di società sportiva, calcistica. Sì, veniva uno da Sassari che organizzavamo degli incontri. Mi sembra che si chiamava Canescia. No, scusa, no, non ci siamo stati. Cos'hai detto? Scusa, ripeti tutto dall'inizio. Che veniva molte volte che organizzavamo incontri, Canescia si chiamava. Ma di che cosa? Di pallone stiamo parlando? Sì. No, no, non c'entra niente. Ho capito chi stai dicendo tu, ma non c'è niente a che vedere con me. È un'altra persona. Sì, mio padre c'è una società, io faccio parte della società di mio padre, da sempre, perché sono nato di lì in mezzo al pallone, non facciamo nomi per pubblicità, non mi interessa farne, perché c'è troppa gente che ascolta. Io sono nato in mezzo al pallone, non c'è da sbagliare, fare il pallone a giubilato. Da piccolino sto continuando adesso, per quello che ho detto, c'ho poco tempo libero, se si decide andare in pizzeria, preferibilmente di venerdì, è l'unico giorno che potrei dare la mia disponibilità. Tranquilli, fuori di campo, poi bastava un po' di alcol e andava in escandescenza, no, già lo conoscevo bene bene, non ti preoccupare. Se era il tipo che ti organizzava lo sciopero, senza motivo, dice beh oggi non si entra, non facciamo entrare nessuno, bocca va tutto, io oggi tutto sciopero, inventa con una scusa, rompe per qualche cosa, dice perché i riscaldamenti non funzionano, ma io rompe per qualche cosa, dice beh oggi non si fa sciopero. Vediamo se ce la faccio, capo. Grazie.